stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime 3 o 4 gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati. There's a new man in town. Per un allenatore credo che è importante lavorare, trovare le condizioni migliori per poter esprimere la propria esperienza, le proprie conoscenze, e penso che qui ci sono le condizioni ideali. Siempre nos habían dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador, para mí todos sois iguales, es la mentira mayor de que existe en el deporte, no todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. I know in England I'm loved. I'm loved by the fans. I'm loved by the media that treats me in a fair way. I know I'm loved by some clubs, especially one. And in Spain the situation is a bit different because some people hate me. C'è un uomo nuovo in città e secondo la stampa inglese, notizia di pochi minuti fa, quell'uomo nuovo è José Mourinho, contratto firmato con il Chelsea, 10 milioni di sterline a stagione, annuncio dopo il 1 luglio, lui che un'ora fa in conferenza stampa a Madrid ha detto: non ho ancora preso una decisione, quando lo farò avviserò mia moglie e i miei figli e non darò altre spiegazioni. C'è un uomo nuovo in città, ma gli uomini nuovi potrebbero essere tanti, non soltanto Mourinho che torna a Londra. Buon pomeriggio da Giovanni Capuano, tutti convocati, anche in questo venerdì che ci porta un weekend di grandi emozioni sportive, perché c'è il Giro d'Italia che parte, c'è lo scudetto della Juventus, ci sono i tanti verdetti del calcio, del basket, della pallavolo. Insomma, siete tutti convocati per dirmi cosa vi attira di più nella 2 giorni che sta per cominciare e che segue una settimana in cui di storie e di emozioni ne abbiamo raccontate tante, a partire proprio da quelle di alcuni allenatori i cui destini si dovranno incrociare come in un romanzo appassionante. Buon pomeriggio ad Andrea Schianchi, collega della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a voi. Hai sentito, c'è un uomo nuovo in città. Oggi voi della Gazzetta avete dedicato 2 pagine al valzer degli allenatori, ma a noi Andrea interessa soprattutto l'aspetto psicologico e anche un po' legato al destino di queste storie che si incrociano. Ad esempio, ad agosto potremmo avere una Supercoppa Europea Guardiola contro Mourinho. Pensa che storia da urlo. Esatto, se il Chelsea vincerà la Champions League e l'Europa League, se il Bayern vincerà la Champions League, potrebbe davvero essere così. Io oggi sulla Gazzetta l'ho chiamato il gran ballo delle panchine. Insomma, quando si muove uno, poi dopo si devono sistemare tutte le altre tessere. Questo è abbastanza ovvio e abbastanza normale. E stiamo parlando di allenatori che hanno, oltre a prestigio, a grandi carriere alle spalle e anche davanti, hanno sicuramente anche dei contratti più importanti, per cui le squadre italiane non se li possono permettere. Anzi, sarà già tanto se riusciamo a trattenere i nostri top allenatori. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, oppure potete seguirci anche su Twitter @tutticonvocati. Parliamo di questo, ma oggi parliamo di tante cose, parliamo anche di pallacanestro, c'è il nostro consueto appuntamento con Dan Peterson, con Flavio Tranquillo, poi domani da Napoli parte il Giro d'Italia, un Giro d'Italia che Radio 24 seguirà con particolare attenzione per tutte le prossime 3 settimane, e poi in un'ampia pagina che dedichiamo alla sua presentazione vi racconteremo tutto. Quanta credibilità diamo, Andrea Schianchi, a questa voce che proprio in questi minuti sta scrivendo la stampa inglese, e cioè di un accordo trovato in una cena nel ristorante La Famiglia di Londra tra Mourinho e il Chelsea? Ma diamo pure credito, ma io credo che insomma la cosa sia stata fatta, no? Io non credo francamente che... È un po' il segreto di Pulcinella. Sì, non credo che accordi del genere, contratti del genere vengano fatti in un giorno, insomma. È chiaro che Mourinho e Chelsea si conoscono da tanto tempo, si sono annusati, io credo che l'accordo si farà, lo ha più o meno detto anche lui, insomma, dicendo che in Inghilterra lo amano, specialmente un club, mentre in Spagna lo odiano. Io francamente penso che questo si farà, è un accordo che si farà, poi dopo bisognerà vedere obiettivamente se avrà a disposizione un budget rilevante per poter costruire una squadra in grado di ambire ad altissimi traguardi. Sì, c'è chi si spinge addirittura a ipotizzare un budget da 200 milioni di sterline, quasi 250 milioni di euro per il primo mercato. Poi ne parliamo, mi incuriosisce anche capire che Mourinho torna a Londra, perché tanti anche lo hanno scritto nel vederlo seduto sulla panchina del Bernabeu mentre il suo Real Madrid cercava di ribaltare la semifinale contro il Borussia Dortmund. A tanti è parso uno special one invecchiato, lontano da quell'immagine a cui anche in Italia ci aveva abituato. Io non sono un grandissimo estimatore né dell'allenatore Mourinho né del personaggio. Andrea, ci siamo? Ti abbiamo perso. No, sono qua. Sono eccoti. Qua. Né del personaggio Mourinho. Francamente, a me sembra che lui al Real abbia fallito. Perché è stato 3 stagioni al Real, là lo avevano preso per vincere la famosa decima, la decima Coppa dei Campioni, e non l'ha vinta. Ha vinto una Liga e ha vinto una Supercoppa di Spagna, una Coppa del Re, insomma, comunque in Spagna, voglio dire, il campionato lo giocano 2 squadre che sono Real Madrid e Barcellona. In questi 3 anni in cui Mourinho è rimasto sulla panchina del Real Madrid, mi pare che la squadra più forte sia stata il Barcellona. Quindi io capisco il clamore mediatico, capisco l'importanza del personaggio determinata anche dal clamore mediatico, però francamente dal punto di vista tecnico mi sembra che Mourinho a Madrid abbia fallito. Sì, ha perso un po' il tocco magico. Intanto Barbara Berlusconi a Milan Channel: sul futuro di Allegri resterà, non competono a me queste decisioni, senza il terzo posto non potremmo essere soddisfatti. E Allegri è sempre più lontano dal Milan. Un amico al 349-238-6666 chiede invece se siamo sicuri che Stramaccioni resterà all'Inter. Per lui sarà Mazzarri il nuovo allenatore. Saluto Paolo. Io credo che si debba dare in questo caso fiducia alle parole di Moratti. Moratti ha più volte confermato Stramaccioni anche per la prossima stagione, e quindi a meno di un ribaltone ai piani alti, penso ad esempio all'arrivo di Leonardo con pieni poteri dal punto di vista dell'organizzazione sportiva e tecnica dell'Inter, io credo che Stramaccioni resterà sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Andrea Schianchi, oggi sulla Gazzetta dello Sport: i conti non tornano con Mourinho, 725 milioni di euro spesi negli ultimi 10 anni da Chelsea, Inter e Real Madrid per vincere una sola Champions League, che è poi è quella che noi tifosi italiani ricordiamo bene, quella del 2010, quella del Bernabeu di Madrid. Come a dire che anche il mito dell'allenatore invincibile in Europa, lo specialista di Champions, si è un po' appannato. Ma secondo me si è appannato, io lo ripeto, l'ho detto prima, non sono un grande estimatore tecnico di Mourinho. A me le squadre di Mourinho francamente non è che piacciono tantissimo, non mi piaceva neanche dal punto di vista tecnico l'Inter di Mourinho, che ha vinto una Champions League di contropiede, diciamo così, soprattutto, pur avendo dei grandissimi campioni, avendo quindi la possibilità di fare il gioco, però insomma non, non dimentico la muraglia di Barcellona, del Camp Nou, ecco. Dopodiché sicuramente lui è un grandissimo uomo mediatico, è un bravissimo a vendersi, ha un grande agente alle spalle che è Jorge Mendes, e tutto sommato anche quando cade, cade in piedi, perché se dopo 3 anni che non ha conquistato la Champions si va a prendere un ricco contratto a Londra con il Chelsea, e ha avuto anche la possibilità di prendersi un altro ricco contratto al Paris Saint-Germain, beh, insomma, vuol dire che gli estimatori non gli mancano. Non c'è dubbio. Potrebbe ereditare il Chelsea campione di Europa League. Oggi ho letto da qualche parte un'intervista di Guardiola invece sulla sua storia finita con il Barcellona. Rivolgo a te la domanda che in tanti hanno rivolto negli ultimi giorni: cosa ci va a fare Guardiola invece al Bayern di Monaco? Perché da questo punto di vista le due storie sono molto simili, cioè sono due allenatori che vanno a sedersi su panchine comunque potenzialmente vincenti. Nel caso del Bayern di Monaco poi potrebbe addirittura ereditare una squadra che ha fatto tripletta, campionato, Coppa di Germania e Champions League. Beh certo, quella di Guardiola è una sfida, perché migliorare il gioco di questo Bayern di Monaco è sicuramente difficile e complicato. Quella di Mourinho è un po' diversa, perché comunque Mourinho io credo arrivi con l'idea di rivincere, arrivi al Chelsea con l'idea di rivincere la Premier e di puntare dritto alla Champions League, e il Chelsea ha vinto non con lui ma con Di Matteo, che era il secondo allenatore dopo Villas-Boas, quindi con un subentrato, diciamo così. Questo è un pochino anche una cosa sì curiosa, ma che racconta come delle volte i soldi, i grandi investimenti di questi magnati russi, magnati arabi eccetera, lasciano il tempo che trovano, perché con i soldi non si fa tutto, le squadre non si fanno solo ed esclusivamente con i soldi, si fanno soprattutto con i giocatori e con i gruppi importanti. José ha bisogno di sentirsi amato ed è stato amato solo dagli interisti e a Londra. Questo è successo, ci scrivono al 349-238-6666, dove poi credo alcuni tifosi interisti, Andrea, ti ricordano che quelli della muraglia di Barcellona erano in 10 contro 11 dal 20esimo del primo tempo. È verissimo. Io a loro ricordo. E ti invitano a ricordarlo. No, ma io lo ricordo, e questo è verissimo, è altrettanto vero che c'era un gol in fuorigioco segnato dall'Inter nella partita d'andata di San Siro. Insomma, la Champions è la competizione dei dettagli, del resto Mourinho l'ha sempre detta. Esatto, dopodiché io faccio un discorso complessivo, insomma, a me francamente il gioco di Mourinho non entusiasma, e le difficoltà che lui ha avuto a Madrid, dove non dobbiamo dimenticare è sbarcato la notte della conquista della Champions con l'Inter da eroe, perché a Madrid lo attendevano come un eroe, come il nuovo messia. Le sue difficoltà a Madrid sono nate non da un carattere spigoloso, ma sono nate dal fatto che gli spagnoli vogliono vedere giocare bene, e a loro il gioco di Mourinho non piaceva. Ero a Madrid quella notte, Andrea, glielo chiesero nella conferenza stampa dopo Inter-Bayern di Monaco: ma lei è convinto di poter far giocare così il Real Madrid? E lui disse: io parlerò del Real Madrid a partire da dopodomani, ma evidentemente i primi sintomi di una possibile crisi matrimoniale c'erano già quella notte. Grazie ad Andrea Schianchi. Grazie a voi. Grazie Andrea. Allora 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Luciano dalla provincia di Belluno, buon pomeriggio Luciano. Buon pomeriggio. Prego. Io sono per aspettare due lance e non una sola a favore di Benitez, perché nonostante tutto è arrivato in un'altra finale di Europa League con il Chelsea, è un allenatore secondo me capace, persona umile, al confronto invece di Mourinho, che al contrario, scusa, di Mourinho, che in 3 anni di Real Madrid con tutti i milioni spesi e il Borussia Dortmund vale solo il Cristiano Ronaldo e non ha vinto la Champions. E se ero Moratti gli avrei dato molto più tempo che invece a Stramaccioni, e nonostante gli infortuni come allenatore secondo me Benitez è molto capace. Eppure è un allenatore ad interim e lo anche per il Chelsea, grazie Luciano. Pensi che il Chelsea vincerà forse l'Europa League con un allenatore a tempo che è Benitez, lo ha fatto con la Champions League con Di Matteo e, se ricorda bene, rischiò di vincerla anche con Avram Grant, fermato a un calcio di rigore a Mosca nella finale contro il Manchester United, sempre con un allenatore a tempo. Andrea da Milano, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Senta, io vi ho sentito parlare anche per quanto riguarda il pallone d'oro e sento sempre parlare sempre solo di punte o mezze punte. Ma io vado un po' controcorrente, propongo un nome per tutti come pallone d'oro. Quest'anno la lista è aperta, prego. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Sì, penso che quest'anno e a partire dall'anno scorso se lo merita alla stragrande, perché ha fatto la differenza nella Juve e lo propongo come nome. Poi, se possibile, vorrei sapere quanto la Juve si avvicina a Di Higuaín. Candidatura registrata quella di Vidal, anche se allora a livello di centrocampisti potrebbe essere l'anno ad esempio di Schweinsteiger, soprattutto se il Bayern vincesse la Coppa dei Campioni, la Champions League. Quanto a Higuaín, ripassiamo fra un paio di settimane. Ho l'impressione che all'Inter ci sia, alla Juventus ci siano un paio di scuole di pensiero sul top player, perché Conte vuole Suarez, questo lo si è capito, Raiola vuole portare Ibrahimovic e questo è altrettanto chiaro. Ho l'impressione che la decisione non sarà immediata. Luigi dalla provincia di Lecco, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Grazie per avermi richiamato. Io vorrei fare una riflessione su una regola dell'UEFA che prevede che la terza dei gironi eliminatori passi in Europa League, giusto? Sì. Io la trovo profondamente giusta. Perché se uno arriva terza in un girone da quattro deve andare a casa. Sono d'accordo con lei, Luigi, e credo che anche il fatto che in questa Europa League alla fine in finale ci siano due squadre che provengono dalla Champions League da un certo punto di vista non aiuti a credere nell'importanza di questo trofeo, che dovrebbe, come era la Coppa UEFA di un tempo e la Coppa delle Coppe, vivere di vita propria, perché in realtà ha delle potenzialità che sono notevoli. Ci chiede Massimo da Pavia se non ci siamo dimenticati di due scudetti, una Champions, un'Europa League con il Porto. È vero, non ce li siamo dimenticati, ma era prima di 10 anni fa. La Gazzetta dello Sport ha fatto il conto degli ultimi 3 presidenti di Mourinho e degli ultimi 10 anni. Saluto Dan Peterson, buon pomeriggio coach. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Questo è lo spazio con Dan Peterson. Oggi è il giorno di Gigi Datome, coach. Lo abbiamo letto un po' ovunque. MVP per la regular season, per la Lega Basket, che è un premio. È un premio importante perché ti votano allenatori, capitani, dirigenti di tutte le altre squadre. E perché è il primo italiano a vincerlo dopo Gallinari, e questo ha scatenato in tanti la suggestione di un possibile futuro NBA. Tu cosa mi dici di Gigi? ovviamente da questo all'NBA è un gran salto, ok, però Datome è perfettamente in grado di fare una cosa così, cioè lui ha buonissimi mezzi atletici, poi ha buoni fondamentali, cioè è un giocatore molto completo in questo senso. È chiaro che Gigi deve evitare gli infortuni, questo è stato il suo croce per tutta la carriera, perché è l'NBA con tanti viaggi, tante partite. Guarda caso, abbiamo menzionato Danilo Gallinari, che adesso ha sofferto molto questo sovraccarico di lavoro, di partite, di viaggi, eccetera, con il fatto che è infortunato adesso, quindi è una cosa da prendere con le pinze, però le possibilità ce ne sono. Sì, lui lo ha detto, aspetto proposte anche da alcune franchigie dell'NBA, ho l'impressione che sotto sotto ci speri. Tu condividi la sua scelta quest'anno di lasciare Roma? È chiaro, se io sono Gigi Datome, io sono molto, ma molto cauto nel fare le cose. Prima di fare un salto all'NBA dico: voglio avere un contratto nero su bianco, spiegatemi le cose, come siamo messi, cioè non lo farei per dire vado lì e mi brucio e torno dopo 2 minuti, ok? Quindi è assolutamente indispensabile, che se sono lui voglio un contratto senza taglio, senza problemi di questo tipo qua. Se loro sono una squadra veramente interessata, lui poi magari può anche andare lì quest'estate provare la Lega d'estate, altri giocatori italiani l'hanno fatto, Gianmarco Pozzecco, Stefano Mancinelli, altri giocatori l'hanno fatto, quindi a vedere dove è veramente il suo livello rispetto a loro. Per me è un buon livello, lui è un ottimo giocatore e questo è veramente, siamo tutti felici per lui. Intanto ce lo gustiamo domenica nell'ultimo turno della regular season, in cui c'è molto già di deciso a partire dalle prime due posizioni, che sono quelle di Varese e di Sassari. Più o meno si gioca soltanto per delineare i posti dal terzo al settimo. Leggevo, Milano e Varese sono le squadre che hanno corso di più nel girone di ritorno, 10 vittorie e 4 sconfitte. Cantù ad esempio è quella che è andata peggio. Possiamo davvero dire, coach, che quella di domenica è l'ultima giornata di una stagione, ma poi si volta pagina e comincerà qualcosa di completamente nuovo, dove ad esempio Milano scala e molto le gerarchie del pronostico? È chiaro che questo è un campionato molto strano, nel senso che nessuna delle squadre di Eurolega è proprio andata fra i primi tre posti, cioè adesso Roma terzo, Cagliari secondo, Varese primo, ok. Dobbiamo dire che anche l'ottavo posto, come hai detto tu, da terzo a settimo è cambiabile, o che ottavo posto Venezia sicuro, con un solo accoppiamento che sappiamo di sicuro, questa Varese primo e Venezia che è nel settimo, ottavo posto, quindi per il resto è tutto un alto mare. Comunque domenica sera sarà tutto più chiaro e poi entreremo in quella grande pagina, in quel grande romanzo che sono i playoff. Grazie a coach Dan Peterson. Grazie a voi, ciao amici sportivi. Ribéry, Falcao, Robben, Schweinsteiger, Lewandowski, ci state scrivendo in tanti su Twitter, @ tutti convocati, sono i vostri pronostici per il pallone d'oro, ma c'è tempo fino a dicembre. Ieri Paolo Condò ci ha detto: guardate che alla fine vincerà ancora Messi. Io spero sinceramente di no. Oggi è anche un venerdì di vigilia del campionato, domani sera c'è un Fiorentina-Roma che vale tantissimo, vale soprattutto per la Fiorentina nella corsa per la Champions League, e allora sentiamo la vigilia di Vincenzo Montella. Sicuramente il legame è ancora, l'affetto è ancora forte, perché sono trascorso 10 anni, perché vivo a Roma, perché ancora ci sono tantissimi amici adesso anche sulla panchina della Roma, anche con i collaboratori, quindi naturalmente non può essere una partita normale. Per noi vale molto, vale moltissimo, perché ai fini della classifica, perché secondo me con una vittoria saremmo quasi certi dell'Europa League, che a 3 giornate dalla fine sarebbe un successo, e poi si aprirebbero ancora scenari importanti per il terzo posto, quindi per noi è una partita fondamentale esclusivamente ai fini del risultato della nostra squadra, e lo è così anche per me. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Strepitoso Montella oggi, gli hanno chiesto perché Osvaldo interessa la Fiorentina e lui ha risposto: perché costa poco, o almeno dovrebbe costare poco. Osvaldo prossimamente sugli schermi di Firenze. Sentiamo anche la vigilia di Andrea Zoli. Non posso dire che sia un problema risolto, perché l'avevo già pensato in altre occasioni e quindi non mi azzardo in previsioni. Avevamo già lavorato anche prima del Pescara, abbiamo lavorato molto nella gara, nella preparazione della gara successiva, e abbiamo visto anche risultati, di questi ne siamo contenti, è una presa di coscienza importante, penso che ci sia servita la lezione. Andrea Agnelli, rispondendo a un tifoso questa mattina a Torino, ha detto: manca davvero poco per lo scudetto, la Juventus sta preparando la festa che dovrebbe iniziare domenica alle 17 al fischio finale di Juventus-Palermo, manca davvero poco, manca un punto. Gursino dalla provincia di Vicenza, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. A lei e a tutti gli ascoltatori. No, volevo solo intervenire su Mourinho, no? Siccome sì, ho sentito prima quelle interlocutore di prima che diceva Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, che non le piace come personaggio, come quell'altro lì, però il problema è che ogni club, ogni squadra gioca per vincere qualcosa, giusto? Sì. Infatti ci sono quelli che giocano bene, che non hanno neanche un titolo, cosa vogliamo dire, no? che ci sono anche quelli che giocano bene e hanno anche tanti titoli, ma che poi Mourinho sia un vincente è del tutto evidente. Io però ho trovato interessante la provocazione della Gazzetta dello Sport, perché lasciato il Portogallo Mourinho si è appiccicato addosso l'etichetta di allenatore specialista di Champions League e, se non erro, ha fatto 7 semifinali consecutive, però è anche vero, e il conto della Gazzetta dello Sport non è sbagliato, è scolpito nella pietra, che è costato quasi 1 miliardo di euro ai suoi presidenti. In questi 10 anni di Champions League ne ha vinta soltanto una, quella del 2010 con l'Inter. Grazie Gursino. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prima di tutto grazie per avermi convocato. Niente, prego. Volevo solo intervenire proprio anch'io su Mourinho. L'unica cosa che io resto male a sentire i giornalisti è quando parlano dell'Inter di Mourinho specializzata nel contropiede. Io credo che il contropiede sia l'arma grande del calcio italiano. Mourinho è stato qui, ha imparato una cosa molto importante, come si vince anche con 10 uomini in campo e come si riesce a resistere anche di fronte a un Barcellona che era molto superiore a quello che abbiamo visto in queste settimane. Quindi secondo me una cosa che noi abbiamo nel nostro DNA del calcio italiano è proprio questo, il contropiede, che ci ha permesso di vincere un mondiale nell'82 e un mondiale nel 2006, non dimentichiamocelo. Eppure i giornalisti italiani cercano il calcio spettacolo. Non solo quelli italiani, anche quelli spagnoli, sì, Roberto. Comunque esatto. Io, Roberto, sottoscrivo quello che lei dice, e trovo che Mourinho e l'Inter abbiano tutt'altro che da vergognarsi di quella che è stata la cavalcata del 2010. Andrea da Ferrara, buon pomeriggio. Sì, salve. Prego. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire su quanto ha detto dal giornalista della Gazzetta, che onestamente, cioè, Non so come facciano a fare i giornalisti. Ma insomma, adesso, Andrea. Vorrei ricordare solamente 2 cose. Prego. Il grande Sacchi ha vinto la prima Coppa dei Campioni con la nebbia di Belgrado ed è stato incensato. Il buon Ancelotti la prima Coppa col Milan l'ha vinta tra semifinale e finale 3-0-0. Ok? Dico solo questo. Mourinho ha trovato il suo ambiente ideale a Milano, a Londra, non l'ha trovato a Madrid, tutto qua. Ma io credo che in realtà lo stiano scrivendo tutti questo, però credo anche che si possa serenamente dire che un allenatore arrivato a Madrid per vincere la 10ª Coppa dei Campioni e che si è fermato a 3 semifinali in 3 anni con un budget praticamente illimitato, ha fallito da questo punto di vista. Grazie comunque, torniamo a parlare di basket, NBA? Più 2 match, la partita si accende, la serie decolla. Il palleggio per Michael Jordan, che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Michael Jeffrey Jordan. Buon pomeriggio a Flavio Tranquillo. Buongiorno. 349-238-6666. Marcello scrive: ma che Chamberlain e Jordan, il Maradona del basket era Magic Johnson. Cosa gli rispondi? Che ci troviamo dal barbiere e allarghiamo la discussione, perché ce ne mettiamo dentro anche 3 o 4, in realtà non si può dire, però certo Magic ha cambiato completamente il modo di guardare la pallacanestro, come minimo. Prima il playmaker era 1,80-1,85, adesso è completamente un altro tipo di giocatore. Tutti convocati dal barbiere, dove da questa notte vanno anche gli uomini di Denver Nuggets. La loro corsa finisce qui. È una sorpresa, come oggi scrivono in tanti, eliminati questa notte da Golden State? È una sorpresa in termini assoluti, perché è una 6 che batte una 3. In realtà è una 6 che batte una 3 senza il suo giocatore più importante. Non è più importante perché hanno perso, non è più importante perché è italiano e gli vogliamo bene, anche se sono vere tutte e due le cose. È più importante perché non è sostituibile, non c'è un giocatore di 2,10 con le caratteristiche di Danilo Gallinari, soprattutto se lo perdi a 5-6 partite dalla fine della stagione regolare. Magari a 40 partite dalla fine della stagione regolare puoi trovare un modo di provare a surrogarlo, ma così all'improvviso penso che sia stata una delle componenti, se non la componente principale dell'eliminazione. E poi hanno vinto i Warriors più che perdere i Nuggets. Sì, gli infortuni sono un fattore in questi playoff, c'è poco da dire. Abbiamo visto Los Angeles, leggevo troppi assenti ammalati anche per Chicago, che ha perso contro i Brooklyn Nets, va a gara 7 e probabilmente ha visto girare la serie questa notte. Beh, sicuramente l'assenza di Heinrich, che si somma a quella di Rose, rende le cose difficili per Chicago, e adesso dover giocare gara 7 dopo averla quasi persa nella testa di tutti con il massacro iniziale, quasi vinta sul 3-1, soprattutto con quella gara da triplo overtime, è una gara 7 che è molto ghiotta mentalmente per i Nets e poco per i Bulls. Matteo su Twitter, chiocciola tutti convocati, chiede la percentuale oggi di un titolo per gli Spurs. Diciamo che è difficile pensare che Miami perda questo titolo, ma se c'è una squadra che glielo può levare sono gli Spurs, e a Ovest tutto per ora sta congiurando perché gli Spurs abbiano una strada più facile rispetto alle previsioni. Detto questo, con tutto quello che è già successo ora e non è ancora finito il primo turno, io penso che succederanno una serie di altre cose imprevedibili, quindi stiamo alla finestra. Ma oggi, se dovessi dire una percentuale, 30, perché il 40 è a Miami. E se avessi invece 10 euro, li punteresti o no sull'impresa di Boston e di Houston? Erano sotto 3-0, sono 3-2. La storia dice che 103 volte su 103 nel lungo romanzo dei playoff NBA, che è andato 3-0, ha superato il turno, però è anche vero che sono due serie che si sono riaperte. E allora dove li scommetti questi 10 euro? Li scommetto ancora onestamente su Oklahoma City e su New York, perché sono più forti delle avversarie e tutto sommato, nonostante le varie cose che si sono succedute in quelle serie, mi sembra che siano in testa non solo perché sono 3-2, ma perché sono più forti. Detto questo, proprio per quella considerazione di prima, che quest'anno succedono una serie di cose imprevedibili, non mi stupirei se una delle due finisse per entrare nella storia, per rompere questa serie di 103 3-0 confermati. Però che affascinante quel paragone, c'è anche oggi su alcuni giornali, con la Major League di Baseball nel 2004 e Boston Red Sox contro New York Yankees. Anche lì non era mai capitato che una squadra fosse capace di ribaltare una serie iniziata senza vittorie, e invece accade, e anche lì Boston contro New York, come a dire che insomma lo sport regala anche di queste storie. È molto affascinante, però eravamo presumibilmente, anche se io non seguo il baseball, al massimo livello possibile delle Major League di allora. In questo caso Boston e Houston sono due squadre con degli evidenti limiti, una Houston perché è ancora molto verde e l'altra perché è verde di maglia, ma perché gli mancano una serie di giocatori a partire da Rondo e una serie di situazioni che non si sono verificate durante l'anno. Quindi alla fine il fascino dei paragoni del passato è bello, però rimango dell'idea che poi si vince perché si è più forti, e sarei stupito se tutte e due, sia Oklahoma che New York, dovessero passare la mano subito. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Saluto Dario Ceccarelli. Ciao Dario. Ciao, buongiorno agli ascoltatori. Ci ha raggiunto perché adesso apriamo anche la pagina dedicata al Giro d'Italia. Prima però Davide da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi. Si sente male Davide, provi ad alzare la voce. Niente, è caduto. Sentiamo Pirlo, Andrea Pirlo, sullo scudetto della Juventus. Pirlo. L'anno scorso non eravamo partiti con l'obiettivo di vincere subito il campionato. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e siamo riusciti. Quest'anno invece era l'obiettivo primario, quello di poter rivincere in Italia lo scudetto, e adesso siamo ad un passo. Questo era Andrea Pirlo, scudetto della Juventus che è programmato, Dario, per le 16.45 di domenica, domenica 5 maggio, quando sarà più o meno in arrivo la seconda tappa del Giro d'Italia, che si apre domani. e che Radio 24 seguirà in maniera particolarmente attenta in queste 3 settimane. Il programma prevede speciali alle 7 del mattino e alle 19 tutti i giorni, poi aggiornamenti quotidiani nelle strisce di tutti i convocati, nei GR, e poi la preziosa collaborazione di Ivan Basso, che mancherà al via da questo Giro d'Italia, e abbiamo parlato con Ivan proprio ieri pomeriggio, ma sarà con noi di Radio 24 per aiutarci a capire un Giro d'Italia, mi sembra, Dario, che sia una rosa a 7 petali, di cui ce ne siano 2 però particolarmente preziosi, Wiggins e Nibali. Sì, hai detto benissimo, sono i 2 candidati alla vittoria, soprattutto Bradley Wiggins, perché vabbè, innanzitutto ha vinto il Tour dell'anno scorso, e poi perché appunto ha l'esperienza, la maturità, le caratteristiche anche mentali per resistere a una corsa con così tante pressioni. Mentre Nibali è la nostra grande speranza, in grande ascesa, è più giovane, sta crescendo mattoncino dopo mattoncino, e soprattutto questo giro è più adatto a lui, nel senso che ci sono molte salite, 5 arrivi in salita, ricordiamo il Galibier, le 3 cime di Lavaredo, e in situazione del genere Nibali ha una marcia in più, soprattutto ce l'ha anche in discesa, cosa che invece Wiggins è un po' più legato, però Wiggins ha vinto il Tour de France e quindi è favorito d'obbligo. Sì, soprattutto nell'ultima settimana avremo da divertirci. Saluto anche Pier Augusto Staggi, ciao Pier Augusto. Buon pomeriggio. Che sarà un po' il nostro filo conduttore, gli appuntamenti ve li abbiamo ricordati, Radio 24 seguirà davvero con attenzione questo Giro d'Italia. Pier Augusto, qual è la temperatura a Napoli? La temperatura 28 gradi, ventilato, sole, gente che è in spiaggia e che sta già riempiendo Piazza del Plebiscito, dove alle 15.30 sfileranno tutte le squadre, le 23 formazioni che daranno vita a questa 96esima edizione del Giro d'Italia. C'è grande attenzione, mi sembra, intorno a questo Giro d'Italia, perché forse, lo scrive oggi anche la Gazzetta dello Sport, era dal 2009 che non si verificava, cioè dallo sbarco di Lance Armstrong, probabilmente la presenza di Bradley Wiggins ha acceso quei riflettori che nelle ultime edizioni erano un po' mancati, Pier Augusto? Ma negli ultimi anni devo dire che è cresciuta l'attenzione mediatica, perché RCS Sport sta lavorando molto per rendere più mondializzata il brand Giro d'Italia. Certamente, come dici tu, Wiggins contribuisce ad accelerare questa operazione, quindi quest'anno c'è una sala stampa estremamente affollata e soprattutto tantissimi giornali stranieri, soprattutto di lingua appunto inglese, vengono dall'America, vengono dalla Cina, vengono soprattutto dall'Inghilterra, che sta vivendo proprio un rinascimento della bicicletta. Wiggins ha fatto scoprire in maniera clamorosa lo sport del ciclismo, è diventato veramente un'icona dello sport britannico. Sì, è un personaggio al di là di quella che è la sua classe poi in bicicletta, assolutamente. Dario? Sì, Wiggins è proprio il personaggio, perché così ha questi basettoni, gli piace la chitarra. Il sesto Beatle. È nato a Gand per caso, ma è nato a Gand, che è una città di grandi tradizioni ciclistiche, e poi ha questa faccia tosta un po' che piace, no? Che quello è uno che ha detto in faccia ad Armstrong che quello che ha fatto Armstrong, insomma, se lo tenga a lui, nel senso che lui non ha nulla da spartire con Armstrong, che ha rovinato il ciclismo, è uno che si prende le sue responsabilità, e questo piace in un mondo dove non sempre tutti ci mettono la faccia. Abbiamo detto una rosa a 7 petali, Pier Augusto, ce ne sono 2 particolarmente preziosi, che sono Wiggins e Nibali. Poi nell'elenco dei possibili favoriti vengono iscritti anche Cadel Evans, Esiedal, Scarponi, Sanchez, Gesing, se vuoi aggiungine anche tu qualcuno, anche se l'impressione è che davvero sia o Wiggins o Nibali, più Wiggins che Nibali. Sì, diciamo, io non sottovaluterei la figura di Ryder Esiedal, il canadese vincitore del Giro dell'anno scorso, perché va molto forte a cronometro, cioè si sa difendere molto bene, non è un fuoriclasse come Bradley Wiggins, che è certamente una spanna superiore a tutti qua al Giro d'Italia, però è uno che si sa difendere molto bene e ha dato dimostrazione anche alla recente Luigi Bastonghiaccio di essere in grande condizione e di poter fare grandi cose sulle montagne. cade l'Evans dalla sua all'esperienza, ma è anche un po' in là con gli anni, però sarà un osso molto duro, quindi diciamo in prima fila sicuramente Wiggins con il nostro Vincenzo Libari, che però parte con un handicap evidente, molto forte. Secondo me questo sarà un Giro d'Italia estremamente sbilanciato, condizionato da questi 92 chilometri contro il tempo, che favoriscono in maniera indelebile il britannico, e Vincenzo Nibali dovrà inventarsi qualcosa sulle montagne, su montagne che si dice sulla carta possono essere indigeste per Wiggins, ma non dimentichiamo che l'anno scorso Wiggins non è mai stato staccato al Tour de France. Sì, Wiggins è un campione capace anche di andare in salita. Ci chiede, scrivendo al 349-238-6666, Luca da Cesena, se ad esempio le tre cime di Lavaredo possono essere una salita decisiva in questo giro. Lui dice, l'ho fatta l'estate scorsa e non riuscivo ad andare su in seconda. Ricordiamo che è stata la salita dove vinse Eddie Merckx, che non a caso è un nome che ha lasciato una storia indelebile nel Giro d'Italia. Una salita che può cambiare la classifica, certo bisogna vedere come ci si arriva, perché se Wiggins ci arriva con 3 minuti di vantaggio mi sa che non basta. Sì, c'è da sperare, Pier, che il Giro non si blocchi all'ottava tappa con la crono di Saltara e da lì in poi sia solo un gioco tattico. Il pericolo è quello che a Saltara inizi il vero Giro d'Italia e possa anche finire, però è anche vero che Nibali è un combattente, l'ha dimostrato sempre, lui si inventa azioni solitarie e anche in giornate assolutamente anonime, e poi potrebbero risultare determinati proprio i giochi di squadra di quelli che noi consideriamo comprimari o giudici, che appunto possono essere anche gli Scarponi, Domenico Pozzovivo, i Franco Pellizzotti, che certamente non hanno pedigree di questi grandi campioni, però sicuramente dovranno inventarsi qualcosa e potrebbero mettere in difficoltà Wiggins. Sarà una partita a scacchi dove il re è assolutamente Wiggins, ma non è detto che la regina possa fare scaccomando. E non è detto che gli altri non abbiano delle mosse buone da fare. Allora, grazie a Dario Ceccarelli, grazie a te Pier Augusto Stagi. Lo ricordo, gli appuntamenti su Radio 24 con il Giro d'Italia tutti i giorni, gli speciali alle 7 alle 19, e poi gli aggiornamenti in tutti i convocati, e poi la preziosa collaborazione di Ivan Basso, che al Giro non ci sarà per i suoi guai fisici, ma che ci aiuterà a raccontarlo nelle prossime 3 settimane. 800 24 00 24, Davide da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Solo una cosa velocissima, solo un ricorso storico. Domenica molto probabilmente la Juventus riuscirà a vincere il 31esimo, per noi tifosi il 31esimo scudetto. Sì, anche se sarà il 29esimo, non se la prenda. No, ma ognuno poi appunto se lo regola su se stesso, poi ognuno lo sa. E no, solo il ricorso storico che l'ultima partita che ha fatto in Serie A, diciamo, la Juventus nel 2006, l'ultima di campionato, è stata proprio col Palermo. E dunque il ricorso storico è che molto probabilmente lo conquisteremo col Palermo. È un cerchio che si chiude. A mio parere sarebbe anche utile che si chiudesse del tutto, anche a partire dal conto degli scudetti, però ho l'impressione che non accadrà, e non accadrà ancora per parecchi anni. Matteo da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve, complimenti per la trasmissione. Guardi, io semplicemente volevo fare due appunti su l'intervento che aveva fatto il signor Andrea, mi sfugge Andrea Schianchi, collega della Gazzetta dello Sport. Non lo conoscevo. Prego. Mi chiedo scusa. Guardi, no, semplicemente tralasciando poi il discorso di Mourinho, che una stagione fallimentare è tale secondo me se consideriamo lo standard di Mourinho, ovvero partendo dal triplete che aveva fatto con l'Inter, io prometto sono un tifoso interista, chiaramente ci si aspettava che anche con Real insomma si tenesse una certa linea. Non l'ha fatto, però comunque secondo me del tutto fallimentare non è stata, perché le sue vittorie, diciamo bene o male, le ha fatte, anche se il Barcellona secondo me è stato superiore. Il mio secondo appunto era riferimento a quanto aveva affermato il signor Andrea sul discorso di Abramovic, che farebbe insomma investimenti un po' che lasciano il tempo che trovano. Secondo me, insomma, una persona che ha un impero di 25 miliardi di euro, che controlla tutto il petrolio e i gasdotti d'Europa, insomma, prima di dire che lui, una persona del genere, fa degli investimenti che lasciano il tempo che trovano, penso che bisognerebbe un attimino collegare un po' cervello prima di parlare. Sì, io credo che qui però si stia parlando di calcio e non di altro, e quindi il giudizio su Abramovic, presidente del Chelsea, patron del Chelsea, è un giudizio legittimo, ma questo vale un po' per tutti, vale anche per i nostri presidenti, per i Moratti, per gli Agnelli, per i Berlusconi, che tanti investimenti hanno fatto negli ultimi 10, negli ultimi 20 anni nel mondo del calcio, non sempre li hanno fatti bene, e ciò non toglie che siano degli ottimi imprenditori. Grazie comunque, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento domani è con il magazine di tutti i convocati. Io ringrazio Roby Scaltritti in regia, Giorgio De Luca, autore di questa puntata e delle copertine che avete sentito. L'appuntamento domani a partire dalle ore 17 con il magazine di tutti i convocati.